torniamo in diretta, torniamo in studio dopo il GR di Radio Popolare qui da Via Zanardi. Il buongiorno si rinnova con la voce di William Piane, la rubrica In Scena che è protagonista nella giornata di venerdì, vigilia di weekend, venerdì fine settimana ma inizio stagione per il Breakfast Club. Aggiungo che dopo il GR di Radio Popolare potrebbe capitare che ci sia un last minute, la rubrica che porterei avanti Altri Suoni. Ho deciso di mettere assieme un po' tutto ciò quest'oggi con una citazione dell'imminente festival Danza Urbana, la danza e la città, è la 27esima edizione. Massimo Carosi, intervistato dalla nostra Rachele Copparoni, che saluto e ringrazio, ha dato un'anticipazione a questa nuova edizione. È in programma dal 5 al 10 settembre, quindi possiamo dire che potrebbe essere anche un pochettino un last minute, e allo stesso tempo sarà accompagnato da sonorità, da altri suoni, questa rubrica tra glitch, ambient, elettronica e quant'altro. Quello che posso aggiungere, danza come sguardo, una delle parole che fanno da filo conduttore per questa edizione, si rinnova sul tessuto urbano come riappropriazione e reinvenzione degli spazi e della quotidianità. Esattamente nella nostra città spesso ci capita, no, di avere un costante passaggio davanti ad aspetti che noi riteniamo ormai consueti, mentre che invece hanno delle specificità assolutamente uniche e speciali. La classica microsensazione che viene evidenziata da Danza Urbana. A breve avremo una breve presentazione con Massimo Carosi, come già vi ho annunciato. Altri Suoni invece con i Baby Mammoth. Baby Mammoth, una formazione per la casa di pubblicazione discografica, pensate un po' che termine che mi sono inventato, un po' desueto ma preciso, la Pork Recording. Musica ambient, elettronica, sonorità dritte, così se vogliamo definirle, anche leggibili e piacevoli ma quanto mai colte. In questo aspetto li troviamo in questo brano che flirta con l'acid jazz. Le loro sonorità sono quanto mai eterogenee. Al termine del brano avremo questa piccola clip di Rachele Copparoni per anticipare Danza Urbana. A tra poco.

che sicuramente ascoltatrici e ascoltatori più assidui hanno riconosciuto. Così abbiamo messo assieme un pochettino tutte le realtà dello spazio post GR di Radio Popolare, ufficialmente la rubrica in scena, poi già iniziata con Danza Urbana, riprenderà subito dopo lo stacco pubblicitario. Per Danza Urbana arrivata la 27esima edizione, alcuni highlight nella nuova realtà della prima nazionale di Metis, lo spettacolo di Maria Giulia Serantoni e Francesca Penzo, dopodiché avremo degli spazi che saranno aggiunti per questi incontri alla chiesa di San Mattia, anzi ex chiesa di San Mattia. Sarà giovedì 7 settembre alle ore 21 e lo di Chincaleri, oltre che tante realtà giovani, altre già affermate, per un programma che prenderà il via martedì 5 settembre. Ufficialmente ad inaugurare il festival, come già anticipato Rachele, è la performance itinerante Porpora Marcasciano, Porpora che cammina, un percorso di 14 chilometri nella città insieme a Porpora Marcasciano. Il programma può essere seguito ovviamente sul sito e sulle pagine social di Danza Urbana. A breve andremo in pubblicità, rientriamo poi con Procedere nel nostro cammino, invece quello che alza il sipario sui 103.1 in scena come ogni venerdì. Conosceremo Orno Teatro, già l'abbiamo presentato la scorsa stagione. Beh, riprendiamo con gli appuntamenti di questo weekend 1-2-3 settembre, e daremo anticipazioni di queste imminenti serate. A tra poco, buon ascolto.